E quindi in primis la guerra e poi appunto l'organizzazione di tutta quella rete di servizi che nel periodo di guerra funzionò perfettamente, per esempio a Barcellona. A Barcellona gli anarchici prendono in mano, gestiscono in prima persona come CNT quasi tutti i servizi pubblici, dalle telecomunicazioni alla posta, ai trasporti pubblici, a buona parte delle fabbriche collettivizzate, eccetera, eccetera. Le donne in questo senso sono fondamentali. Forse la loro capacità organizzativa rende il loro ruolo fondamentale, perché durante i 3 anni di guerra i servizi a Barcellona funzionano perfettamente e sono le donne, perché gli uomini fondamentalmente sono quasi tutti al fronte, a occuparsi di questo. Idem, questo vale anche per le municipalità collettivizzate della campagna, dove molte terre vengono espropriate ai latifondi e alla chiesa e vengono collettivizzate e si creano nei piccoli centri di campagna delle comunità di autoproduzione agraria in cui le donne hanno ruoli fondamentali, anche se difficilmente troviamo nomi di donne nella storiografia classica della rivoluzione spagnola, perché il perché lasciamo perdere, mi sembra ovvio. però prendono in mano, insomma, in prima persona le redini della situazione e la portano avanti molto bene. Purtroppo, mi viene un inciso, proprio negli anni dal 36 al 39 poi ci fu l'esperienza di rapporti, diciamo, poco idilliaci con i sindacati e il movimento di ispirazione comunista, che creò degli attriti all'interno del movimento, o meglio all'interno proprio anche dell'esperienza di Mujeres Libres, per volontà di egemonia comunque delle donne durante la rivoluzione. E è inutile che sto a raccontarvi quello che successe in quegli anni, penso che lo sappiate un po' tutti. Ci furono momenti proprio di attrito forte con esponenti anche femminili dei sindacati comunisti e socialisti, anche perché loro vedevano l'impegno della donna in quel momento storico come esclusivamente sostitutrice dell'uomo all'interno della fabbrica, punto. Cioè la donna, l'uomo va alla guerra, la donna va in fabbrica a lavorare. Mujeres Libres la pensava un po' diversamente, nel senso vedeva la donna non semplicemente come una sostituta quando l'uomo non c'è, ma come con la capacità di organizzare anche in momenti così gravi e difficili una presa di coscienza e un coinvolgimento per un reale cambiamento sociale che era ben lontano dall'immaginazione di certi partiti politici. Che dire? Le cose da dire sono tantissime in realtà. Cioè, il ruolo è svolto innanzitutto proprio all'interno degli Atenei rispetto alla capacitazione, cioè all'autoformazione, quindi concorsi che andavano da corsi di base, proprio gli atenei erano strutturati come delle vere università, quindi con vari gradi anche di specializzazione, di approfondimento di tematiche, eccetera. O all'interno del campo sanitario, con la creazione di ospedali, cliniche, con la preparazione di donne a livello infermieristico, medico, le famose scuole, come si chiamavano le scuole? Che si richiamavano Francisco Ferré, per cui portavano avanti un concetto comunque di pedagogia libertaria che tuttora è rivoluzionario, completamente utopico se vogliamo, ma interessantissimo. Esperienze vissute, ecco, io avevo letto, scusate, la locandina di questa iniziativa dove dice Mujeres Libres sull'attivismo di un gruppo di compagne. In realtà non era un gruppo di compagne, erano migliaia di compagne riunite in piccoli gruppi, ma presenti in tutto il territorio spagnolo e che formavano una federazione veramente notevole. Ecco, la Marta Hackelsberg mette l'accento, non so se per sua volontà o perché attraverso le interviste che ha fatto questo è uscito, e forse per questo, sull'atteggiamento dei compagni rispetto al loro attivismo, che era un po' un atteggiamento, da una parte un atteggiamento un po' paternalistico, no? Ma sì, dai, poverine, lasciamole fare, tanto che male fanno. Dall'altro una ridicolizzazione della loro attività, quindi anche con aggettivazioni tipiche maschili, quando vogliono ridicolizzare comunque una donna. Che chiaramente nascondeva anche una sorta di paura di messa in discussione comunque di ruoli consolidati di potere all'interno della famiglia, all'interno della società. E questo questo atteggiamento fu uno dei motivi, diciamo, conflittuali, oltre al fatto, oltre alla scelta ribadita sempre di autonomia di Mujeres Libres rispetto alla FAI, il che non voleva dire che Mujeres Libres non si riconoscesse nella FAI, anzi, diciamo che nell'ultimo congresso della FAI a Barcellona, mi sembra, poco prima della fine della guerra, Mujeres Libres, benché non invitata, andò e mise all'ordine del giorno il riconoscimento dell'organizzazione Mujeres Libres come terza componente della federazione anarchica ispanica, mozione che non venne approvata. Nonostante questo, quindi, che si riconoscesse in tutto e per tutto all'interno dell'organizzazione anarchica spagnola, rivendicò sempre per sé una posizione autonoma e quindi capace anche di prendere delle decisioni autonome rispetto alla FAI. Questo forse alla FAI non andò mai giù, e questo è il motivo, e lo vide un po' come una sorta di separatismo, anche se Mujeres Libres dichiarò sempre di non voler separare nulla, e mai, cioè non c'era un motivo per cui separare la lotta delle donne dalla lotta dei lavoratori spagnoli. Una concomitanza di cause fece sì che Mujeres Libres non venne mai riconosciuta come terza componente fondamentale, di cui la CNT era la prima, la FIJL la seconda, e vabbè, la FAI riuniva sotto il suo cappello, bene o male, un po' tutte queste organizzazioni. Magari possiamo lasciare buona parola anche loro. Sì. Magari dico due cose io sulla casa editrice. Sì. No, un'ultima cosa. Siccome appunto dicevo all'inizio che Martha Akersberg proviene da un'esperienza di femminismo radicale americano, lei mette parecchio in collegamento l'esperienza di Mujeres Libres con l'esperienza femminista d'oltreoceano. Quello che tende a fare è proprio porre Mujeres Libres come un esempio storico unico e ripetibile e da tenere presente per qualsiasi organizzazione femminile che si riconosca comunque nella propaganda di ideali altri, cioè in un radicalismo politico certo non di stampo piccolo borghese. E quindi l'incitamento che fa alle donne americane è proprio di tenere presente, cioè di non scindere mai quello che è la lotta della donna dalla lotta di liberazione di classe di un intero popolo. Dico due parole io come appartenente al collettivo di Zero in Condotta sul un po' sui contenuti, il piano di lavoro che come casa editrice teniamo e perché abbiamo poi deciso di editare questo libro. Zero in Condotta è una casa editrice che ormai ha qualche anno di vita, è nata verso la fine degli anni Ottanta come espressione della Federazione Anarchica Italiana, che si è voluta dotare appunto di una casa editrice che producesse testi che avessero una qualche utilità sul piano della riflessione politica, culturale, sociale e così via. E abbiamo cercato nel nostro lavoro di concentrare la nostra attenzione sugli aspetti forse meno noti del movimento libertario, e parlo ovviamente da un'ottica italiana, nel senso che abbiamo cercato di editare testi soprattutto inediti per il pubblico italiano o di lingua italiana. Testi che non erano mai stati tradotti, testi che non erano stati mai presi in considerazione. Uno dei primi è stato L'ideologia anarchica, che poi è stata pubblicata come Idea anarchica di Angel Cappelletti, che era un illustre sconosciuto qui da noi, ma che in Latino America gode di vasta fama come autore di numerosissimi saggi, di testi, di studi, di analisi, è un professore di filosofia che è deceduto qualche anno o sono, quindi lo possiamo considerare quasi un contemporaneo, tra l'altro anche un militante della Federazione Anarchica Uruguayana, del movimento venezuelano, ha girovagato per tutta l'America Latina ed è un personaggio che ha scritto cose molto interessanti e che noi abbiamo voluto così omaggiare, diciamo così, con la edizione di questo testo che è L'Idea Anarchica, che è un testo di introduzione, se si vuole, alla conoscenza del pensiero anarchico. Poi, al di là di questo, siamo andati oltre un testo su Cuba Libertaria che ha pubblicato appunto un testo dedicato alla storia dell'anarchismo cubano, che è praticamente sconosciuto, sia nella sua sviluppo, il movimento anarchico cubano, come tutti i movimenti anarchici della Latino America, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei movimenti sociali di quei paesi, è all'origine dei movimenti operai e sociali di quei paesi. Hanno avuto un ruolo assolutamente determinante, questo perlomeno fino agli anni 30 e 40. Per i cubani la presenza prosegue fino alla rivoluzione del 59, all'affermazione del castrismo e anche nella lotta contro il castrismo. E quindi è un'esperienza molto importante che però sono nelle pieghe della storia. Ecco, il compito della nostra casa editrice è stato quello un po' di riportarle alla luce, di trasmettere questa memoria alle generazioni che verranno, perché riteniamo che sia fondamentale che di queste esperienze non se ne perda il senso, perché ancora oggi hanno qualche cosa da dire. Hanno qualcosa da dire sia come lotta per la libertà, come anelito per una società diversa, una società giusta, una società egualitaria, una società libera, sostanzialmente libera. E anche nella lotta odierna, nel confronto che noi tutti i giorni abbiamo con il padronato, con lo Stato, con l'autorità e così via, il farsi avere questi riferimenti può essere un grande aiuto perché ci accorgiamo nell'affrontare questi testi dell'enorme ricchezza del movimento libertario internazionale, della sua aderenza alla lotta quotidiana, della sua capacità di esprimere una progettualità che non è pura utopia, perché molte volte per utopia noi intendiamo qualche cosa di irraggiungibile. No, invece il movimento anarchico nel suo sviluppo internazionale ha dimostrato una concretezza notevole che poi nella Spagna ha assunto i livelli più alti. Ma la Spagna è la punta, se si vuole, di un iceberg di tante grandi realizzazioni che il movimento internazionale ha operato e ha realizzato nel corso della sua vita. Ecco, l'attenzione che noi vogliamo dedicare a questo lo si ritrova un po' nei libri che abbiamo fatto. Anche per esempio uno degli ultimi che abbiamo editato sulla resistenza libertaria in Germania cerca di tirare fuori degli elementi che al pubblico italiano erano totalmente sconosciuti o quasi totalmente sconosciuti. Quale resistenza c'è stata al nazismo da parte di settori della popolazione tedesca? Ci sono stati fino al 36, al 37. Se uno fa un viaggio in Germania e va a cercare negli archivi, trova ancora dei volantini della federazione della FAUD, del sindacato anarco-sindacalista, che volantinava evidentemente in modo clandestino fino al 36-37 per raccogliere fondi a sostegno della rivoluzione spagnola. Cioè, quindi questo vuol dire una rete di presenze, una rete di compagni, vuol dire dei collegamenti, vuol dire un movimento che dopo 4 anni di dittatura crudelissima e assolutamente sanguinaria, no? Musam è stato assassinato attaccato a un gancio da macellaio nel 1933 in un campo di concentramento subito dopo la vittoria di Hitler, tanto per dire che tipo di trattamenti i compagni dovevano subire. Bene, questa rete è stata una rete ancora vitale fino a quegli anni. Ecco, valorizzare questa memoria secondo me è importante, non solo per un debito di riconoscimento nei confronti di questi compagni e di queste compagne che si sono sacrificate per una grande idea di libertà, ma proprio anche per l'insegnamento che ci possono dare e per l'ispirazione e per i riferimenti che ci possono dare. Per tornare a questo libro della Martha Åkesberg, ho già detto l'interesse che noi abbiamo per tutto quello che succede di significativo nel panorama anarchico internazionale. È evidente che la questione spagnola assume sempre un'importanza notevole e alla questione spagnola abbiamo dedicato alcuni testi, uno tra l'altro curato da Alfonso Nicolazzi, il compagno tipografo di Carrara recentemente mancato, che aveva prima di fare il tipografo, quando faceva ancora lo steward per le linee aeree italiane e andava in giro per il mondo, lui raccoglieva faceva delle interviste dei vecchi militanti della rivoluzione spagnola. Aveva curato appunto una serie, aveva raccolto una serie di queste interviste e noi pubblicammo un testo che Chi c'era racconta, riportando tutte queste interviste che erano molto significative perché andavano di là degli storici di professione, no? Superavano gli storici di professione, no? Andava a contatto, no? Valorizzando la storia orale sostanzialmente, che è un grande contributo di conoscenza, al di là delle analisi degli storici che lavorano sulle carte, no, direttamente con le persone. E questo testo edito è stato uno dei primi che abbiamo appunto dedicato alla Spagna. Poi c'è stato quello importante di Diego Camacho, Abel Paz, su Durruti e la rivoluzione spagnola, questi due tomi che abbiamo curato, visto il peso economico dell'operazione, insieme alla Serantini di Pisa e alla Fiaccola di Ragusa. Ecco, e poi questo testo qui della Åkesberg, che ci è sembrato molto importante perché non solo è un testo di trasmissione, come giustamente diceva Cinzia prima, di trasmissione di un'esperienza, ma proprio perché mette in relazione questa esperienza con l'esperienza del femminismo contemporaneo, con una lettura che va oltre il mero dato storico, ma entra proprio in dialettica con la contemporaneità. E questo ci sembrava importante perché, soprattutto per chi ha vissuto gli anni da 70 in poi, il conflitto di genere, il problema delle relazioni uomo-donna, beh, hanno assunto finalmente una dimensione corretta, cioè nel senso che per troppi anni i movimenti sociali, i movimenti rivoluzionari hanno fatto di ogni erba un fascio praticamente, e facendo di ogni erba un fascio hanno valorizzato solo la presenza maschile, relegando le esigenze e la questione femminile, che è legata evidentemente a un'analisi di genere, a una situazione di totale subalternità. Questo libro, anche da un punto di vista libertario, secondo me, dà un grosso contributo, perché colloca appunto questo tipo di esperienza e fa risaltare in modo molto chiaro, soprattutto ricordando che certi dibattiti sono stati all'interno del movimento italiano, ma credo un po' in tutti i movimenti anarchici internazionali a cavallo degli anni 70, rispetto all'emergenza del femminismo, dove molti compagni oggettivamente non riuscivano a cogliere ancora questo problema e assumevano una posizione sostanzialmente di difesa di un proprio ruolo, mascherandosi sostanzialmente dietro la posizione classica libertaria, che siamo tutti uguali. In realtà siamo tutti uguali, ma fino a un certo punto, cioè nel senso che poi nella nostra uguaglianza abbiamo delle diversità che cerchiamo di nascondere, ma che sono sempre presenti e che emergono. La questione di genere è una di queste differenze, che solo la sua comprensione può consentire una realizzazione di tipo libertario molto più maturo e molto più reale, no? Al di là dello slogan. La Hackensberg, secondo me, coglie molto bene questo tema, no? Quando parla che non si trattava tanto di accentuare la differenziazione, no? Un po' che era la procedura che hanno compiuto molti movimenti femministi, ma si trattava di cogliere la diversità in un rapporto dialettico, cioè riconoscere la relazione e nel riconoscimento della relazione l'affermazione della diversità. E questo è un elemento fondamentale che, se è colto da tutte e due le componenti, non solo evidentemente quella femminile, ma soprattutto quella maschile, che deve cogliere l'elemento della diversità, ecco che ci sarebbe un arricchimento notevole in questa direzione e una maggior dialettica in questa direzione. Tra l'altro, rispetto alla diversità, l'attualità proprio del discorso è anche riferita all'attualità rispetto ai gruppi etnici, culturali, eccetera. Solo negli ultimi decenni si fa riferimento alla valorizzazione della diversità. Fino a poco tempo fa l'omogeneità e l'uguaglianza era la chiave che avrebbe risolto tutti i problemi. Quindi nel momento in cui ci sarà la rivoluzione, saremo tutti uguali e saremo tutti liberi, eccetera, eccetera, si appiattiranno tutti i problemi dovuti alla diversità. No, non è vero, la diversità insiste e c'è, esiste, ma e non necessariamente la diversità è male, anzi, la diversità è un valore da recuperare e da analizzare e studiare e far entrare nella nostra prospettiva politica, perché altrimenti è appiattimento, non è uguaglianza. Difatti anche l'Hackensberg fa riferimento ai vari movimenti di rivendicazione, anche, che ne so, degli omosessuali, comunque delle varie diversità presenti nella società. Per quanto riguarda l'epoca, erano presenti in Europa altri gruppi femminili, oppure che le Mujeres Libres erano in contatto con altri gruppi, chi lo sa, magari un po' in Italia? Sicuramente con Emma Goldman, che ai tempi bazzicava spesso in Spagna e dava un supporto notevole e portava quello che erano le esperienze anche europee e non solo. In Europa, esperienza che si possa paragonare a quella di Mujeres Libres non mi risulta che ci fosse. Sicuramente ci saranno stati gruppi di donne ispirate comunque da ideali libertari che portavano avanti una cosa del genere, e sicuramente la pubblicazione Mujeres Libres, il giornale, la rivista che loro facevano, oltrepassava anche le frontiere della Spagna. Però che ci fosse un'esperienza del genere a livello organizzativo di donne al di fuori della Spagna, io non ne ho, non lo so, non so se tu ne hai. Io sento. No, non ne ho sentore neanche io, cioè, non credo che esista uno studio ancora approfondito su questa questione rispetto a quei tempi. Sicuramente dopo sì. Certo, secondo dopo me dobbiamo 68, arrivare agli anni 60-70 per trovare una volontà e una capacità anche organizzativa di questo genere da parte delle donne. C'è da dire che su certi temi c'è sempre stata una particolare sensibilità. Per esempio negli anni 50 la rivista Volontà si fece promotrice di una grande campagna sul controllo delle nascite, che evidentemente interessava particolarmente la componente femminile, no? Non perché ci fosse un disinteresse, ma perché evidentemente per motivi ovvi. E quindi questo qui c'era la Giovanna Berneri, no? era nella redazione di Volontà, insieme a Zaccaria, erano quelli che poi sviluppavano questo tipo di discorso, insomma. Però sì, come gruppi organizzati non... Ma penso che fosse negli Stati Uniti c'era. Forse negli Stati Uniti? Sì. Probabilmente sì. La Goldman sicuramente, però la Goldman per me non è portavoce di un'esperienza statunitense, ma di un'esperienza molto più vasta, non riferibile all'ambito culturale e politico degli Stati Uniti in quel periodo. Roger Jones, che è stato anche un esponente di assunto dei ruoli importanti all'interno della lotta sindacale. Sì, no, se parliamo di singole donne ce ne sono tantissime. Ma anche perché la manodopera femminile, specialmente in quell'epoca e specialmente in certi campi industriali, era predominante, quindi comunque sì, era sindacalizzata. Sicuramente le donne singole ci sono sempre state, hanno avuto un ruolo importante in tante situazioni, ma come esperienze di Mujeres Libres, cioè di decine di migliaia di donne organizzate in un'organizzazione specifica, di questo si parlava, perlomeno io ho capito in questo senso qui, ecco, di queste esperienze qui credo che non ce ne siano molte, no? In quegli anni lì proprio, cioè non... Ma di singole donne presenti nei vari contesti sì che ci sono, cioè non per niente voi domani esponete una mostra che evidenzia questo fatto, è incontrovertibile. Il problema è dell'organizzazione di decine di migliaia di donne, come è stato Mujeres Libres. Ecco, questa è un'esperienza che in quegli anni all'interno del Movimento Libertario Internazionale, ma credo anche negli altri movimenti, non è che non era data, insomma. Non, a me quello che interesserebbe sapere è se le donne libere erano un'organizzazione, diciamo, ideologicamente trasversale, o se raggruppava soltanto delle donne libertarie, anarchiche. Cosa intendi per ideologicamente trasversale? Non so se c'erano anche donne che si rifacevano al comunismo, al socialismo. No. No, no, Mujeres Libres fin da subito ha dichiarato comunque, cioè proprio nella fondazione, nel manifesto di fondazione del gruppo, si dichiara anarchica e libertaria, e aderente alla FAI, e esclude quindi già dall'inizio la trasversalità che tu intendi, ecco. Anche perché le donne comuniste avevano delle loro, cioè, se noi ci ricordiamo la passionaria Dolores Ibaruri, era comunista, è passata la storia, mentre io non ho fatto neanche un nome delle donne anarchiche, un po' volontariamente, un po' perché è relativo comunque la presenza di una o due militanti di ferro all'interno di un gruppo così vasto. E non prevista comunque, non ha senso, non ha senso parlare di una persona o di due persone. Sicuramente all'interno delle organizzazioni sindacali, politiche, partitiche anche della sinistra, c'erano gruppi organizzati di donne che si occupavano di tematiche femminili, di sindacalismo visto dalle donne, di rivendicazione dei diritti delle donne. Organizzati però secondo criteri gerarchici, secondo schemi partitici e con dei principi lontani comunque da quelli della partecipazione libertaria, intesa da Mujeres Libres, che anzi ha sempre preso le distanze comunque da certi atteggiamenti di prevaricazione di movimenti o di lotte, cioè mettere il cappello su certe cose. Una cosa che si potrebbe dire è che le organizzazioni socialiste e comuniste erano delle semplici cinghie di trasmissione, sì, del partito. Cioè, come il sindacato è sempre stato concepito come cinghia di trasmissione del Partito Comunista, del PSUC e così via, la stessa cosa valeva per l'organizzazione delle donne. Mentre in campo libertario, Mujeres Libres non si può mai affermare come cinghia di trasmissione. Mujeres Libres cerca sempre di avere una relazione all'interno della sigla unificante che era il movimento libertario spagnolo, no? Cercava di avere una relazione e quindi un riconoscimento all'interno di quel contesto, ma era lei che cercava. Cioè, quindi questo vuol dire molto chiaramente che non esisteva e non poteva esistere neanche una concezione minima di cinghia di trasmissione, non c'era nessuna trasmissione di nulla, era l'affermazione di una soggettività. Affermava in modo chiaro una soggettività, come il sindacato affermava la soggettività dei lavoratori, come la federazione anarchica affermava la soggettività del militante anarchico, come la federazione giovanile iberica libertaria affermava la soggettività della componente giovanile. Insomma. E se ci sono stati dei tentativi, perché dei tentativi ci sono stati, proprio all'interno di questi meccanismi di prevaricazione maschile che erano presenti, e sono stati presenti anche all'interno del campo libertario, non bisogna nasconderci dietro il dito. Non per niente sono arrivati fino al congresso di Barcellona nel tentativo di essere riconosciuta come organizzazione, perché c'erano delle resistenze da parte dei gruppi più militanti, diciamo, degli esponenti più in vista delle varie organizzazioni che potessero essere FAI o CNT, no? Però il problema qual è che era? No? Il problema era che il discorso che veniva sviluppato da Mujeres Libres cercava di contaminare tutte queste realtà, e cercando di contaminarle cercava di creare un terreno favorevole rispetto alle proprie rivendicazioni, che non era solo rivendicazione ma anche dei mutamenti di tipo culturale. È interessante per esempio il rapporto nei confronti della prostituzione. Mujeres Libres fa una battaglia contro la prostituzione. O meglio, vuole far entrare all'interno del sindacato le prostitute, cioè vuole sindacalizzarle, vuole Sì, ma non è che vuol sindacalizzare nel senso di le vuole, no, però vuole renderle coscienti, emancipare comunque, dalla loro condizione e fare battaglie all'interno dei bordelli, chiaramente, no? Fa dell'incursione all'interno dei bordelli, per appunto mettere in contraddizione, in crisi chi andava nei bordelli, e molte volte che andavano nei bordelli erano gli stessi miliziani, perché cioè, il meccanismo è quello, no? La contraddizione di genere poi diventa anche quello, no? E quindi c'era una battaglia rispetto a questa, e questa battaglia evidentemente è una battaglia che si andava a scontrare poi con tutti con il macismo presente, no? In Spagna noi sappiamo che nei paesi latini il macismo è sempre stato una componente molto forte, no? È tuttora forte, è tuttora presente, non è che si possa negare questo. E lì in Spagna l'hanno assunta come contraddizione frontale, insomma.